is that there are factors to be developed. Quindi la cosa importante da realizzare è che ci sono dei fattori che vanno sviluppati. That these will develop quite naturally whenever we establish right awareness. E che questi si svilupperanno abbastanza naturalmente ogni volta che noi stabilizzeremo questa giusta consapevolezza. And that, in a sense, is the sole purpose of our practice. E questo, in un certo senso, è l'unico scopo della nostra pratica. If you were to reduce the whole of the teachings of the Buddha, at least in the practice, to one word, it would have to be sati. Se voi doveste ridurre tutti gli insegnamenti del Buddha in una sola parola, questa sarebbe sati. So I hope my words have been of some use to you. Spero che le mie parole siano state di una qualche utilità per voi. And I truly hope that you will be liberated sooner rather than later. E sinceramente mi auguro che voi siate liberati prima piuttosto che poi. Grazie. So maybe ring the bell at 8 o'clock again.